La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno. In questo sabato di cortei, di proteste, il Partito Democratico si riunisce a Roma e riunisce manifestanti a Roma per la grande manifestazione contro il governo, contro la politica economica del governo, ma anche contro la politica sulla scuola. Per parlare di questo abbiamo con noi la senatrice Maria Pia Garavaglia, PD, ministro ombra dell'istruzione. Buongiorno. Buongiorno a lei. L'onorevole Maria Teresa Armosino, PDL, membro della Commissione Bilancio, buongiorno. Buongiorno. E poi avremo anche Rosanna Massarenti, autrice del libro Donne e Denaro, per cavarsela in questo momento di congiuntura economica. Allora, senatrice Maria Pia Garavaglia, ci sono state un po' delle perplessità da parte dell'opinione pubblica, ma anche da parte della maggioranza, di tenere un corteo in un momento così difficile per l'economia. Perché il Partito Democratico ha scelto comunque di manifestare? Beh, intanto non è che il momento è più difficile un giorno o l'altro giorno, purtroppo che il nostro paese quest'anno sarebbe entrato in recessione, lo dicevano tutti gli economisti e l'ha spiegato così bene anche nel libro La paura e la speranza Tremonti. Le manifestazioni si fanno quando un partito autonomamente crede di poter chiamare le persone in piazza per far sentire la voce. Purtroppo, dopo l'esperienza fatta con tutti i decreti dal 25 giugno ad oggi, abbiamo praticamente votato solo decreti alla Camera e al Senato, un partito di opposizione che ha semplificato molto il quadro parlamentare, per cui c'è un grande partito di opposizione e un grande partito grandissimo di maggioranza, per cui per far sentire la voce dell'opposizione occorre la piazza oramai, una piazza composta, serena, che esprime anche allegria e fiducia nel futuro, che dice il suo pensiero, e quindi è una manifestazione, francamente, quella di oggi, che serve a tutto il paese, perché come la maggioranza quando governa esprime il governo per tutti, l'opposizione quando fa bene il suo mestiere esprime anche il controllo da parte di tutti sull'azione del governo. Onorevole Maria Teresa Armosino, PDL, membro Commissione Bilancio, spaventa un po' la maggioranza questa manifestazione? No. Siete spaventati? No, assolutamente no. Le sensazioni di spavento si hanno di fronte a cose che sono gravi. Qui forse c'è da chiedersi quale sia la finalità di questa manifestazione. Io credo che le minoranze abbiano il doveroso compito di fare il controllo sugli atti del governo, ma abbiano anche il compito ancora più evidente in questo momento di crisi in cui versa non solo il paese, ma versa tutta l'economia mondiale, di fare delle proposte. Quindi noto un dato molto singolare per me che vengo dal periodo del 68, come vi sia questa sedicente saldatura oggi fra professori e studenti. E come questa invece è la ragione di contestazione, quella che è la protesta di insegnanti che di fatto non vogliono l'applicazione di un principio di meritocrazia, come se poi ci sarà tempo, approfonderemo nel corso di questa trasmissione, con invece un preteso, e da parte mia assolutamente contestato, minore interesse per l'istruzione a partire da quella elementare. Lei comunque concorda con il piano del ministro della pubblica istruzione, dell'istruzione Maria Stella Gelmini, da quanto abbiamo capito? Concorda pienamente? Oppure lei, che è stata e che è in commissione bilancio, è stata relatrice della finanziaria, non ha magari qualche miglioria da fare? Guardi, io su una cosa vorrò parlare con Maria Stella e anche con gli altri componenti del governo, ed è questo dato. Penso all'università, no? Credo che una delle prime cose che noi dovremmo fare, e su questo penso si possa aprire seriamente una discussione, uno scambio, sia non tanto dire ogni 10 insegnanti che vanno in pensione ne introduco due, quanto cominciare a chiedere ai professori universitari di tenere un corso di quelli che sono detti gli esami di diritto fondamentale, fra gli esami fondamentali, a quelli possono aggiungerne tranquillamente un altro. Questo è un dato che nelle università del nord, sicuramente in quelle piemontesi c'è già, ed ha un taglio diverso rispetto ha un qualcos'altro che invece può legittimamente far pensare che si creino dei corsi esclusivamente per sistemare delle persone, che è l'aumento a dismisura di corsi di laurea. Sentiamo allora la senatrice Maria Pia Garavaglia del PD, ministro ombra dell'istruzione, concorda con questa proposta. Guardi, di Maria Teresa proposta Armosin? Non l'avevo pensata e mi pare azzeccatissima, perché in realtà la collega... Stavo dicendo amica, perché non ho motivi per non considerare tale il ministro Gelmini, ha voluto dare più significato, perché in realtà l'educazione civica c'è già nelle scuole, ma l'ha voluta elevare a disciplina obbligatoria nelle scuole elementari e secondarie, ma che tutti, davvero tutti all'università, almeno un corso di diritto, anche per sapere dove sono, cosa fanno, dove andranno, e all'università forse oltre che la Costituzione magari anche un po' i trattati europei, il diritto internazionale, sarebbe un sogno per me. Quindi se Armosino, quando lo dirà alla ministra, troverà a condiscendenza, io che ho già presentato la proposta di iniziativa del PD sull'università, affinché nessuno dica che protestiamo senza fare proposte, sarò ben felice di aggiungere anche questa indicazione. Quindi un corso di diritto costituzionale ed europeo obbligatorio in tutte le facoltà, anche nella facoltà di matematica. Quando uno si laurea dovrà sapere almeno da che parte vive, come sta, sarebbe un'idea geniale. Invece che cosa non vi piace? Un taglio indiscriminato. Stavolta guardi che non sto dicendolo io, l'hanno detto i rettori. L'hanno detto con pacatezza prima, con più preoccupazione poi, e adesso stanno veramente facendo appelli. Perché il ministro, è vero, la cosa curiosa è che ognuno che parla dice un pezzettino di verità. Ieri il ministro dice: ma se non ho ancora presentato niente sull'università, perché scioperano l'università? Ma perché l'università sanno dai rettori stessi che è stata tagliata pesantemente quest'anno. Il fondo di funzionamento ordinario, cioè proprio quello che serve per dare gli stipendi, per le borse di studio, per la cancelleria, proprio per il funzionamento. Se si taglia quest'anno, intanto che stiamo parlando, di 468 milioni, l'anno prossimo di 1 miliardo, eccetera, e alla fine di 3 anni di 3 miliardi e 2, i rettori pensano di dover chiudere le università e quindi stanno scioperando perché hanno capito bene che c'è un attacco all'università. Poi nel decreto finanziario di cui è stata relatrice la collega Armosino, l'articolo che si dedica all'università è un articolo che oltre ai tagli dice anche: trasformatele se volete, trasformatele in fondazione di diritto privato. Quindi c'è proprio una specie di disimpegno dello Stato dall'università, che è il bene più prezioso che un paese ha. Quindi mi pare che gli studenti l'abbiano capito, molti professori l'hanno capito, i rettori e i presidi stanno facendo valere l'autonomia che la Costituzione pretende dell'università, per cui saranno loro a gestire gli accessi, i non accessi, poter garantire o non garantire le lezioni senza che intervenga la polizia. E ricordiamo che Silvio Berlusconi è rintervenuto, ha detto: nei cortei ci sono facinorosi che hanno il supporto dei giornali riguardo appunto ai cortei degli studenti. La quota rosa. E torniamo, abbiamo sentito le proteste ma anche le proposte sia dell'opposizione che della maggioranza riguardo al provvedimento sulla scuola, almeno un esame di diritto Costituzionale e internazionale in facoltà, qualsiasi facoltà, anche quindi ingegneria e matematica, per dirne due, ma parliamo soprattutto di quello che sta avvenendo, con la crisi economica e, sappiamo c'è stato un altro venerdì nero ieri, ci sembra che la situazione, Maria Teresa Armosino, sia un po' questa, che durante il weekend i governi si riuniscono, cercano di riparare un po' e di frenare il panico, poi, lunedì, martedì vanno bene e piano piano invece si scivola di nuovo verso il panico a fine settimana. È un po' così? Beh, sì, in effetti noto anch'io questo ed è inutile negarlo. Io però ho una fiducia, pur non essendo una persona particolarmente ottimista. Io penso che questo grave problema che attanaglia le economie mondiali abbia la sua origine, e dico cose molto banali, in un percorso che è durato troppo tempo, lungo il quale gli imprenditori non hanno fatto gli imprenditori, ma hanno fatto finanza. E che questa, che è una crisi che interessa il mondo della finanza, farà invece per converso riemergere l'imprenditoria. Quindi E lei è quindi fiduciosa assolutamente sì. che l'economia reale possa poi superare la crisi? Perché Sì, penso che sarà difficile, che occorrerà stringere i denti, ma che ci sarà un'inversione di tendenza sulla costruzione dell'economia reale. È un grande rammarico. A me capitava, come tutti i parlamentari piemontesi, di incontrare spesso sull'aereo da Torino diretta a Roma Andrea Pininfarina, che chiedeva a tutti noi, di qualsiasi schieramento e parte politica, fate attenzione, perché, è un paese che non sta premiando chi fa impresa. Mi spiace, oltre al fatto gravissimo della sua perdita, per tutto quello che ha significato, non solo per la sua famiglia, ma per tutti, la perdita di questa grande figura, che oggi e solo oggi si acquisti una consapevolezza di un fatto che lui ci diceva da anni. Senatrice Maria Pia Garavaglia, PD, Ministro Ombra Istruzione, oggi a che ora è l'appuntamento? Lo vogliamo dire? Noi partiamo in maniera differenziata, tra diversi punti della città alle 13:30. Io, per esempio, partirò da Piazzale dei Partigiani, dove c'è una serie di regioni che convergono lì: Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, eccetera. L'altro corteo partirà da Piazza della Repubblica e ci troveremo tutti al Circo Massimo. Ma con questa crisi finanziaria, questo corteo non rischia un po' di perdere, la No, no, io verve? ribadisco che, come ha detto Armosino, che non lo teme, ci mancherebbe altro che facciamo temere una manifestazione, vuol dire che non ci sono le intenzioni di democratica partecipazione ad un'impresa, che è l'impresa di un partito che vuole farsi presente nel paese, perché oggi noi parliamo proprio, non saranno attacchi a Berlusconi, saranno le richieste al governo, per esempio, per far ripartire l'economia reale, c'è bisogno di più consumi. Arriva la tredicesima, se potessimo detassare la tredicesima a tutti, pubblici e dipendenti privati, è un bel sospiro di sollievo che diamo alle famiglie. Quindi noi oggi, per esempio, chiederemo proprio aiuti per le famiglie, per i meno capienti, per i pensionati. Quindi chiedere significa anche poter incominciare un lavoro che non è più né bipartisan né tripartisan, è apartisan se si vuole pensare all'interesse del paese. Quindi il nostro corteo di oggi, lungi da essere una contestazione acritica, l'antiberlusconismo che non appartiene a questa parte dell'opposizione, è rendere visibili, anche con partecipazione di popolo, le priorità del PD. L'intervento pubblico è un male necessario, ma solo per emergenza. Lo ha detto, visto che stiamo parlando di economia, il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, ha detto no anche alla rottamazione per elettrodomestici e auto, ci vogliono agevolazioni per chi investe in innovazione. Insomma, anche gli imprenditori si chiedono in questo momento qual è il modo migliore per stimolare le imprese. Rossanna Massarenti ha scritto Donne e denaro, regole e consigli per diventare davvero padrona della tua vita. Lei è direttore della rivista Altro Consumo. Con questa crisi, questo libro, che consigli ci dà? Dare consigli in questo momento è, almeno di carattere finanziario, è molto molto difficile. Il libro sostanzialmente vuole dare un grosso consiglio alle donne, e che è quello di farsi largo, anche se è molto difficile nel mondo del lavoro, e avere la consapevolezza che l'indipendenza economica per le donne è un grande valore, non solo per loro stesse, ma per la società in generale. In Italia più del 50% delle donne non lavorano, quindi non hanno un reddito proprio, sono costrette a gestire la famiglia basandosi solo sul reddito del marito, e non lavorano non è un'espressione corretta, perché in realtà lavorano moltissimo ma senza avere un riconoscimento economico. Ecco, sostanzialmente le donne devono farsi un po' più parte attiva in una società che non è assolutamente pronta a trattarle come tratta gli uomini, nonostante tantissimi proclami sulla carta. Lei ha scritto anche in questo libro, ricordiamo, Donne e Denaro, edizioni Mondadori, Donne Shopping, cioè questo rapporto con lo shopping compulsivo, mi sembra, no? Cioè, per me comprare qualcosa di bello, cito il suo libro, soprattutto da mettermi addosso, esorcizza la morte, quindi attenzione a questo aspetto psicologico. E anche Donne e Risparmio, e in un capitoletto dice non fidatevi delle banche. Beh, con la crisi economica che c'è, ci sembra che questo capitoletto sia abbastanza essenziale. Sì, qui metto insieme un po' di esperienza personale, molta esperienza che ricavo dal mio lavoro di consiglio ai consumatori, e quindi con cognizione di causa dico non fidatevi delle banche, anche nelle piccole cose, soprattutto dei consigli delle banche, e soprattutto non siate subalterne, cercate di non sentirvi imbarazzate o in difficoltà di fronte a un impiegato di banca. Ci sono tante cose su cui è relativamente facile informarsi per essere almeno parte attiva, per poter discutere dei propri investimenti, piccoli o grandi, perché non c'è bisogno di avere grossi capitali per occuparsi in qualche modo del denaro, che è una cosa irrinunciabile, no? Onorevole Maria Teresa Armosino, PDL, l'OCSE dice rischi di recessione ampia e lunga. Non è sembrato che il premier Silvio Berlusconi fosse un pochino troppo ottimista? Beh, io credo che ci sia il dovere di chi governa di rappresentare le situazioni, quindi e anche di fare delle proposte. Ho la certezza, conoscendolo, che Berlusconi sia un uomo che conosce e comprende molto bene l'economia e i suoi meccanismi. Non penso che lui abbia fatto delle dichiarazioni di eccessivo ottimismo. Penso che stia facendo con grande sforzo una politica di rigore, perché sicuramente è cambiato il mondo e dopo questo nulla sarà come prima. Ma l'ottimismo penso si fondi davvero sulla possibilità della nostra economia di valere per tutti i punti sani che porta al suo interno e che vengono rivendicati con fierezza dagli imprenditori e dagli industriali. Come abbiamo sentito Emma Marcegaglia, senatrice Maria Pia Garavaglia, PD, ministro ombra istruzione, chiaramente non vogliamo associare i due tipi di ottimismo, quello del premier e quello di un grande storico, Vittorio Foa, che è venuto a mancare nei giorni scorsi, ma una sua frase sarà poi uno striscione, uno slogan della manifestazione, quindi questa manifestazione ricorderà anche questa figura? Sì, nel senso che Veltroni, da quando io ero il suo vice sindaco, lo sentivo sempre citare Foa, perché gli dava coraggio in questa persona che era vecchia di età e giovanissima di spirito, che chiedeva sempre di guardare avanti, di pensare al futuro, Veltroni trovava veramente un maestro adatto a tutti noi, credo proprio a tutti, perché chi pensa al futuro del paese poi si impegna per il paese. Quindi per noi questo non è un simbolo, io non vivo di simboli, ho una fede per altre cose, però sapere che ci sono stati testimoni che ciò che hanno detto l'hanno vissuto ci toglie gli alibi, nel senso che se qualcuno ha fatto come ha detto, impedisce a noi di parlare a vanvera, perché se no ci si accorge che si dicono cose che non si fanno, che si dicono cose in cui non si crede. Quindi a me che oggi venga ricordata proprio quella frase che riguarda il futuro, sembra anche un bello auspicio, perché in fondo abbiamo tutti questi giovani in giro per l'Italia che ci richiamano che scuola e università sono il futuro del paese, non solo il loro futuro personale. Credo che insomma inquadriamo il pomeriggio di oggi in un discorso che farebbe bene a tutti. Ricordiamo la frase di Vittorio Foa, che sarà un po' la frase della manifestazione del PD, pensare agli altri oltre che a se stessi, al futuro oltre che al presente. La quota rosa. Ne ho abbastanza di tutto. Cerco la pace. Vedrò se la vita può darmi ancora un po' di serenità e di dolcezza. Tu sai cosa intendo. No, so solo che ti amo. Questa è la tua disgrazia. Rhett! Rhett! Se te ne vai, che sarà di me? Che farò? Francamente me ne infischio. Non voglio perderlo, non voglio. Ci deve essere il modo di ricondurla a me. Non posso pensarci ora, se no divento pazza. Ci penserò domani. Devo pensarci. Che cosa posso fare? Cos'è che conta nella vita? Trai la tua forza da questa terra, da Tara. La terra è la sola cosa che conti, la sola cosa che duri. Qualcosa che amate più di me, benché forse non lo sappiate. Tara. Tara. A casa mia. E troverò un modo per riconquistarla. Dopotutto, domani è un altro giorno. E come al solito avete riconosciuto sicuramente uno dei film più importanti, più famosi della storia del cinema, Via col vento, e questa promessa di Rossella O'Hara, che è proprio quella di riconquistare il suo Rhett. Domani un altro giorno troverò il modo di riconquistarlo. Qualcuno se l'è posto questo problema, e come dare un seguito a questa promessa che Rossella O'Hara, in inglese Scarlett O'Hara, fa a se stessa, quella di riconquistare il Rhett. E allora Donald McCaig ha scritto Il mondo di Rhett, edizione PM, e domani un altro giorno, dopo Via col vento, la leggenda continua, l'attesissimo seguito ufficiale di Via col vento raccontato dal punto di vista dell'affascinante scapestrato Rhett Butler, che era interpretato da Cary Grable nel famoso film del 1939 di Victor Fleming. Dall'infanzia in una piantagione, all'attività di contrabbandiere, al grande e contrastato amore con Rossella O'Hara. Un mattone, come si dice in gergo, piuttosto voluminoso per le appassionate di questa grandissima saga che ci ha fatto sognare. Ma non solo, Rossella O'Hara è sempre un personaggio molto importante nella storia femminile, perché è un'antieroina, è una donna ribelle, sicuramente una donna scomoda. E per parlarne, e per parlare sia del seguito ma anche di quello che è stato questo film, abbiamo con noi Paola Cristalli, curatrice delle attività editoriali della Cineteca di Bologna e autrice di Victor Fleming, Via col vento, Lindau editore, e poi Elisabetta Chicco, autrice a tavola con Scarlett O'Hara, Le ricette di Via col vento. Allora Paola Cristalli, nel 1939 esce questo film, un romanzo tratto da un romanzo di Margaret Mitchell. Come ha rivoluzionato il modo di vedere le donne Rossella O'Hara? Allora, il film esce appunto nel 39 ed ha un successo, come tutti sanno, al di fuori di ogni attesa, o in realtà preventivato molto bene da Hollywood certamente, ma comunque probabilmente con un esito ancora più clamoroso, per una serie di motivi, ma certamente il centro di questi motivi, il principale di questi motivi, è questa figura di donna del tutto come dire, inaudita anche per, come tu dicevi, anche per gli standard del cinema hollywoodiano. Intendiamoci, il film è un melodramma purissimo e nello stesso tempo è di genere tutto suo, e questo spiega il suo successo. Il film si conclude con questo interrogativo di cui abbiamo sentito, le ultime parole, le ultime battute, quindi questa sospensione fatta ad arte. È un melodramma che non finisce né bene né male, non sappiamo appunto cosa accadrà di Scarlett, se riuscirà a conquistare Rhett, e questo interrogativo sospeso è stato pensato per durare nei secoli dei secoli, e non credo che servirà questo seguito. Il mondo di Rhett, come non è seguito il primo seguito autorizzato, Rossella, dei primi anni 90, Scarlett, poi tradotto anche in italiano e che diede vita a una miniserie televisiva sia americana che italiana, a sciogliere l'ombra di questo dubbio che in fondo continua a incatenarci. Quindi è per questo che continuiamo, credo, che ad essere così attaccati e così incantati da questo film, anche per questo appunto interrogativo sempre aperto. E certo, certo al centro c'è una donna che non soltanto è libera, è indomita, è assolutamente resistente a tutto ciò che la vita le mette davanti, quindi una donna, un profilo di donna molto significativo per l'America che usciva dalla depressione, quindi per un paese in cui le donne avevano assunto anche sempre maggiore rilievo e su cui è pesato molto della storia nazionale e delle sue difficoltà negli anni precedenti, ma è anche una donna a cui viene perdonato tutto, cioè questo mi sembra molto interessante, ovvero è un'eroina melodrammatica che ne fa di ogni colore in fin dei conti, nel senso che Scarlett O'Hara è una donna che si sposa per interesse, è una donna che si vende a un certo punto, che prova a vendersi, che inganna, che tradisce, che vive continuamente altalenante fra due amori ambigui in qualche modo, e all'eroina di che si permette la cosa che non è permessa a nessuna, è persino una cattiva madre, perché nel film questo è meno chiaro, ma il romanzo di Margaret Mitchell ne fa una madre quasi snaturata, e anche nel film comunque si capisce che in fondo la morte di Bonnie, della bambina che ha con Rhett appunto, non è la vera tragedia della sua vita. Quindi tutto questo di solito viene punito dal cinema classico hollywoodiano con l'espiazione o il sacrificio. Per Scarlett no, Scarlett la lasciamo in questa soglia in cui tutto può accaderle, in cui non è mai sottoposta a condanna e in cui ha sempre il nostro cuore, siamo sempre dalla sua parte. E questo è uno dei motivi di grande fascino. Possiamo dire che Scarlett O'Hara sia un po' il seguito della bisbetica domata di Shakespeare? Possiamo dirlo così, forse per una suggestione shakespeariana, perché Vivien Leigh porta con sé un'eco shakespeariana, non lo so, no, direi di no, Scarlett assolutamente non è mai domata, no. Anche perché ricordiamo che la bisbetica domata poi è stato fatto anche un bellissimo film con proprio Elizabeth Taylor, no? Dove però alla fine veniva appunto domata. Tutta. Che era Elizabeth Taylor e suo marito, il suo grande amore, Richard Burton. Elisabetta Chicco, autrice di A tavola con Scarlett O'Hara, le ricette di Via col vento. Via col vento ha questa caratteristica, che è il primo film poi che sta dalla parte del sud, degli stati confederati, degli stati separatisti, e queste ricette quindi hanno a che fare con delle ricette del sud degli Stati Uniti? Oh, certamente, sono molto rappresentative, dato che Margaret Mitchell ha ricostruito proprio con spirito documentaristico quello che era il costume degli anni di metà 800 nel sud degli Stati Uniti, quindi ci sono, sono tutte ricette, sono citati, cioè i cibi da cui poi io sono risalita le ricette, ma sono tutti i cibi tipici del sud degli Stati Uniti, che contemplano apporti indiani, creoli, europei, africani, e quindi è molto interessante anche da questo punto di vista, perché rivela così una cucina molto, molto particolare. Ecco, parte, ci può dare qualche ricetta, magari qualche piatto, tanto per capire? Magari nomino più che altri piatti, perché dare le ricette forse no, sarebbe curioso. Però ecco, siccome il cibo è in un certo senso anche un grande protagonista di Via col Vento, negli aspetti, visto negli aspetti opposti, sia dell'abbondanza sia della penuria, l'abbondanza nei tempi ricchi prima della guerra e poi nel dopoguerra, nella riconquistata pace, e la terribile lotta per la sopravvivenza invece nei tempi della guerra, delle devastazioni, delle tenute di Scarlett e dei suoi vicini Wilkes. Quindi il cibo è raffigurato, appunto, dicevo, in questi due aspetti, per cui si alterna la visione, l'immagine di cibi ricchi come il prosciutto e il sugo di panna, il famoso gravy, di selvaggina e di pollo, contrapposto in questo caso come cibo dei ricchi al cibo dei poveri, che erano neri o che erano bianchi abitanti delle paludi, o erano gli stufati di piccola cacciagione, come per esempio l'opossum, lo scoiattolo, erano il lardo e i fagioli. Poi c'è il cibo miserabile, il cibo monotono dei tempi feroci della guerra. Ricordiamo quella scena in cui lei strappa le radici, no, da Tara. Esatto, strappa una radice di grafano, mentre alla ricerca appunto di qualche piantina di fagioli, di piselli sopravvissute in qualche modo alle devastazioni, al saccheggio dei nordisti, e spinta dalla fame strappa questa radice di grafano, la mastica, poi si sente malissimo, ma quando si riprende grida: mai più soffrirò la fame, Dio mi testimonio, mai più soffrirò la fame. E quindi scatta questa lotta, questa grande capacità di rivalsa che ha Scarlett nei confronti della vita e dei momenti disastrati, diciamo, della sua vicenda, che poi ne fa uno degli aspetti più affascinanti, no, di questa donna, cioè l'eterna capacità di rilanciarsi, di riprendersi, di risollevarsi. E dicevo, c'è anche interessante il cibo creolo che Scarlett gusta con passione doviziosa dopo il matrimonio con Rhett, quando va in viaggio di nozze a New Orleans. Ed è allora la cucina ricca, sostanziosa del gambo, che il gambo era una quantità di carni di diverso tipo messe insieme e legate da salse, ogni cuoco aveva la sua ricetta per queste salse. Augusta, le ostriche, anche queste cucinate in diversi modi, in forma di pasticcini, su canapè. Gusta i pesci in cartoccio e poi le torte, no? Ci sono queste torte gocciolanti di panna, ci sono queste torte di cioccolato, ecco. Quindi dicevo, i momenti si alternano, questi momenti appunto dell'opulenza del cibo e invece della tristezza del lardo fagioli, della fame, della farinata di mais che ritorna inesorabile con accompagnamento di piselli secchi sulla tavola. Allora, insomma, c'è molto da scoprire con A tavola con Scarlett O'Hara, le ricette di Via col Vento. Lei ha scritto anche La cucina golosa di Madame Bovary e A tavola con Virginia Woolf. Noi ringraziamo Paola Cristalli, curatrice appunto delle attività editoriali della Cineteca di Bologna e autrice di Victor Fleming, Via col Vento, Elisabetta Cicco, e ricordiamo che potete anche trovare in libreria Donald McCaig Il mondo di Rhett, Il ritorno di Via col Vento. Vento. La quota rosa. E torniamo a parlare di Scarlett O'Hara, di Rossella O'Hara, di Vivien Leigh, l'attrice che la impersonificava. Certo, sentendo Elisabetta Cicco che parlava con A tavola con Scarlett O'Hara e tutte le ricette, ci sembra un po' strano che abbia avuto questo vitino di Vespa che si vede nel film. Ma Vivien Leigh ha avuto invece come attrice una vita molto drammatica e Catherine Spack l'ha portata a teatro nel suo spettacolo L'ultima conferenza stampa. Allora, Catherine Spack, io le chiedo, ma chi era Vivien Leigh? Ah, beh, questa è una domanda. Vivien Leigh, beh, intanto la ricordiamo tutti in Via col vento e anche in Blanche-Bois nel tram che si chiama Desiderio, suppongo, ha vinto 2 Oscar per ciascun film. Anche la moglie di Laurence Olivier è stata una donna, una grande attrice di cinema, di teatro, una donna molto sensibile, molto tormentata, malata di tubercolosi, poi aveva dei problemi psicologici, così ha finito la sua vita con elettroshock per curare una forma di pazzia, di depressione fortissima, quindi una vita bellissima e tormentatissima. Sembra un po' anche la vita di Zelda Fitzgerald, insomma quelle vite di donne tormentate, un po' lo stesso periodo. Eppure Vivien Leigh la ricordiamo deliziosa in Via col vento, questa bellezza incredibile, ed è strano come un'attrice di così tanto successo, che ha avuto così tanto successo, poi abbia avuto una fine così tragica. Ma non tanto, perché se guardiamo la storia degli attori, degli attrici, dei creatori, dentro questi possiamo mettere pittori, scrittori, musicisti, e quindi questo destino, come dire, tormentato, difficile, è diciamo qualcosa che appartiene a moltissimi grandi artisti delle varie nostre epoche. Lei ha impersonificato anche altre attrici o anche altri personaggi, Edith Piaf, Coco Chanel, Jean Cocteau. Che cosa in questo momento le ha fatto scegliere per Vivien Leigh? Ma in realtà sono più, diciamo, attratta dalle personalità femminili, e questo per un'eredità probabilmente di harem o di comunque un interesse vero per il mondo delle donne, la loro creatività, i loro problemi e quant'altro. Lei appartiene, Vivien Leigh appartiene sicuramente a quella categoria di persone straordinariamente dotate e allo stesso tempo straordinariamente labile dal punto di vista psicologico. Lei impersonifica Vivien Leigh in un attimo particolare, ci vuole spiegare qual è il momento della sua vita? Questo è un testo scritto da un'autrice e attrice americana che si chiama Marcy Lafferty, ed ho comprato questi diritti l'inverno scorso, ma il testo si chiama L'ultima conferenza stampa di Vivien Leigh, ma in realtà durante questa conferenza stampa immaginaria lei risponde a tantissime domande, sia all'inizio della sua carriera, della sua giovinezza, e ovviamente sono pretesti perché lei possa visitare, rivisitare tutta la sua vita, e quindi è il racconto della sua vita, del suo lavoro, del suo amore con Laurence Olivier e della sua follia piano piano crescente fino alla morte per tubercolosi però. Qual è il momento del monologo che le piace di più? Ce lo vuole accennare? No, beh, non ce lo può accennare perché c'è bisogno del palcoscenico. No, mi piace soprattutto la parte finale, quando lei è proprio consapevole, diciamo, della fine della sua salute mentale, si rende conto che non sta bene, si rende conto che per sopravvivere, per poter andare ancora in scena è costretta a subire elettroshock, eccetera. Sicuramente la parte più toccante, la parte più romantica anche della sua fine, perché si suppone attraverso questo testo che lei morirà poi qualche tempo dopo, quindi poi il canto del cigno. Il mondo di Rhett di Donald McCaig è il seguito, diciamo, il ritorno di Via col vento. Crede nella possibilità che quel capolavoro possa avere un seguito? Questa è una domanda alla quale non posso assolutamente rispondere. Non saprei assolutamente, sarà un'altra storia, anche se la continuità di una precedente, però decisamente diversa da quello che è stata prevista nel finale della Mitchell. Che era un capolavoro, ricordiamo, ci penserò domani proprio con Vivien Leigh, che appunto quando Rhett lascia Tara e finalmente lei si rende conto di amarlo, no? Quello ha fatto piangere generazioni intere di donne e di uomini, diciamolo. A proposito di donne, lei ha detto: io mi metto in scena delle figure femminili molto forti, Coco Chanel, Edith Piaf, e ha anche attaccato un modo di vedere la donna, certi modelli femminili che si vedono in TV oggi, come le troniste. No, io non voglio attaccare nessuno. Il discorso che ho fatto durante la conferenza stampa il 13 di questo mese, si è parlato di femminismo, di evoluzione del femminismo, della figura femminile, del costume, l'evoluzione del costume, di tutto ciò che è accaduto dal femminismo degli anni 60 in poi. E quando mi sono riferita alle troniste, mi riferivo a un'immagine di donna che non corrisponde assolutamente a quello che noi, la mia generazione, donne della mia generazione, avevamo immaginato per i prossimi 20 anni a venire. E quindi io non ho niente contro nessun tipo di trasmissione, parlavamo dell'immagine femminile, e in quanto a questa sicuramente le troniste non corrispondono all'immagine della donna libera, indipendente, autonoma, consapevole dei suoi diritti, dei suoi doveri, della sua femminilità e della capacità di gestire rapporti sentimentali che siano alla pari. Poi ha anche detto che su riguardo il cinema non le va ad interpretare il ruolo di nonna, quindi rimane... No, guardi, le cose vengono sempre riportate male, o mal riferite. Allora, lei ce lo sa, nel cinema una donna di una certa età viene chiamata solo per fare la nonna? Beh, basta andare al cinema o guardare tante cose, insomma, voglio dire, ruoli di donne della mia età che siano dei ruoli con, come dire, un certo spirito, una certa verve, non sono così frequenti, e quindi in questo senso io non mi sento di interpretare mamme o nonne tradizionali. Questo intendevo. Lo spettacolo è partito il 18 ottobre al Teatro Studio dell'Auditorium Parco della Musica, e le tappe saranno in tutta Italia. Sì, adesso stiamo finendo, il calendario si continua a creare man mano, però sarò in tournée, sì. Qual è il pubblico più difficile in Italia? Lei che è a teatro, c'è un pubblico un po' più difficile degli altri? Non si può dire questo, non è che esiste un pubblico più difficile, diciamo che al sud sono un pochino più indisciplinati, no? Cellulari accesi, macchine fotografiche, popcorn, bambini che corrono, però direi che questo dipende dall'attenzione che si riesce a catturare rispetto al pubblico. Quando il pubblico è interessato, allora diventa attento e questi inconvenienti non si verificano da nessuna parte. Noi la ringraziamo e ricordiamo Catherine Spack quest'anno interpreta Vivien Leigh. Grazie. Io ringrazio Paolo Corleoni in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere alla quotarosa@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.